English 24. Un saluto da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Come iniziare bene l'anno nuovo e come augurarvi un buon anno? Beh, sicuramente con uno dei nostri personaggi preferiti. Torniamo a parlare, lo abbiamo già fatto poche settimane fa, di Bruce Springsteen e con Bruce Springsteen. Lo facciamo perché siamo alla vigilia di una settimana in cui ne parleremo spesso a Radio 24, ne parleremo tutti i giorni alle 11 in Essere Benessere con Nicoletta Carbone. Ascoltiamo Bruce Springsteen in un'intervista che è contenuta e relativa a questo straordinario album che è stato ripubblicato con questo cofanetto ricchissimo, ne abbiamo già parlato, per questo che è un vecchio album che data 1977. Allora ascoltiamo proprio la voce di Bruce Springsteen che ci racconta proprio di quegli anni. After Born to Run, I wanted to write about life in the close confines of the small towns I grew up in. In 1977, I was living on a farm in Homedale, New Jersey. It was there that I wrote most of the songs for Darkness on the Edge of Town. I was 27 and a product of top 40 radio. Songs like The Animals, It's My Life, We Gotta Get Out of This Place were infused with an early pop class consciousness. That, along with my own experience, the stress and tension of my father's and mother's life that came with the difficulty of trying to make ends meet, influenced my writing. I had a reaction to my own good fortune. And I asked myself new questions. I felt a sense of accountability to the people I'd grown up alongside. I began to wonder how to address that feeling. All of this led to the turn my writing took on Darkness. Siamo ai tempi successivi a Born to Run, un album straordinario, fondamentale. E cosa succedeva al boss? Grandissimo, che ci fa proprio le sue confessioni, cerca di ricordarsi come si sentiva e quindi dice: I wanted to write about life in the close confines of the small town I grew up in. E qui vedete che, se io non so come parlasse lui quando aveva 18 anni, 20 anni, però nel tempo ha veramente sviluppato un suo inglese anche molto forbito, perché confine, che è confine, è un termine abbastanza letterario per l'inglese, quello comune è border per esempio. Qui però, siccome è un confine appunto figurato, perché erano quei confini angusti della piccola la città dove I grew up in, non where I grew up, ma I grew up in. E quindi con questo era la premessa di tornare appunto alle origini dopo il successo già allora enorme di Born to Run, che è stato l'album che ha un po' rivelato Bruce Springsteen agli Stati Uniti e al mondo. E noi siamo sempre stati abituati a pensare a New York come Manhattan, come l'isola di Manhattan, ma qui siamo in un altro tipo di realtà, una realtà più rude, una realtà più rock, che è quella del New Jersey. Il New Jersey, infatti c'è anche, mi ricordo, un altro album di Bruce Springsteen che è Greetings from Ashbury Park, New Jersey. Comunque lui si sente del New Jersey, quindi in 1977, sappiamo nel 1977 dicono, no, gli americani e gli inglesi, ma noi diciamo 1977, lui viveva appunto nel New Jersey, che da Manhattan si vede, però come diceva la Marta è tutta un'altra cosa, cioè il New Jersey è un altro mondo. È un momento comunque di crisi, nonostante lui si trovi ad affrontare un grandissimo successo, perché dopo i grandi successi bisogna andare in un altro posto figurativamente. Sì, perché a un certo punto insomma si rende conto che la sua vita sì era quello che era di uno che era entrato a 27 anni nella top 40 radio, che tra l'altro allora insomma con un meccanismo completamente diverso, che dove bisognava veramente andare a comprare gli album, non come adesso che downloadiamo magari anche gratis, era un altro tipo di successo, di accomplishment, di traguardo, quello di entrare lì. E allora a un certo punto poi lui dice: invece io sono tornato alla my own experience, e a quella e ha ricominciato a pensare stress and tensions of my father and mother's life, quindi gli stress e le tensioni non tanto sue, che a quel punto era già diventato un uomo famoso di successo e probabilmente anche già ricco, ma invece alla vita dei suoi genitori. Eh sì, perché tutto questo l'ha portato un po' alle radici che gli hanno restituito ispirazione. Questo è secondo me è bellissimo, cioè questo sense of accountability, cioè lui sentiva di dovere delle spiegazioni, di doversi non giustificare ma proprio spiegare, cioè continuare a restare autentico con people I had grown up alongside, cioè le persone che mi avevano visto crescere, che persone che avevano per esempio difficulty to make ends meet, che è un'espressione per dire letteralmente far coincidere la fine delle cose, cioè arrivare alla fine del mese, e quindi a queste persone persone, lui doveva dimostrare che anche se era di successo e ricco, era sempre lui. All of this led to my writing, cioè tutto questo lo ha portato alla scrittura. E l'abbiamo detto, era giovane, 27 anni, era in un certo senso all'ingresso dell'età adulta, e ce lo spiega ancora in questo periodo come si sentiva Bruce Springsteen. That's a reckoning with the adult world, you know, with a life of limitations and compromises, but also a life of kind of just resilience and commitment to life, to the breath in your lungs, you know. How do I keep faith with those things? How do I honor those things? Darkest was a record where I set out to try to understand how to do that. Tante domande si faceva in quel periodo, e forse anche da queste domande, da questo avere a che fare con una vita nuova, uscire da un grande successo e affrontare la verità e l'età adulta, ha generato un capolavoro. E questo to reckon è un verbo che vuol dire non riconciliarsi, non cercate traduzioni strane, è proprio venire a patti con, quindi to reckon with the adult world, riconoscere, ma nel senso appunto di riconoscere fino in fondo, non solo dal punto di vista visivo, e quindi venire a patti. E soprattutto con questo senso che forse è vero, la vita da adulto e non più da bambino, appunto da adolescente, è questo, avere il senso del limitation and compromises che tutte le vite adulte purtroppo devono vedere, devono fare. Ma anche una vita utilizza un altro sostantivo molto complicato che non usiamo spesso e che però dà l'idea di quello che per lui era e forse è ancora l'esistenza. Quindi just resilience, bellissimo, come un metallo, in italiano esiste la parola, il sostantivo, anche l'aggettivo, resilienza, resiliente, ma lo usiamo poco. In inglese invece si usa ed è appunto questa resistenza, ma come uno che resiste a tutto senza fare passi indietro e comunque continua a pensare le cose, in questo caso è una resilienza di pensiero, a pensare, avere lo stesso atteggiamento, e quindi addirittura questo commitment to life, cioè essere impegnati nel vedere la parte, comunque la parte bella, la parte di valore della vita, che è una vita di limitation and compromises, però è vedere vedere il breath in your life, cioè vedere che comunque la vita è respiro, la vita è vita, cioè la vita non va vista come una cosa troppo oscura, anche quando, come raccontava sopra, è una vita difficile, fatta anche di difficoltà economiche. E tutto questo in Darkness on the Edge of Town c'era, ed è proprio il disco in cui tutto questo avviene. Infatti lui dice I set out to set out, altro phrasal verb, quindi to set out vuol dire mettersi in testa di, quindi mi sono messo in testa e sono come partito per try to understand, quindi cercare di capire queste cose, questo sforzo di tornare, bellissimo, scusate ma io adoro il boss, adoro tutto quello che dice, tutto quello che fa, tutto quello che suona, tutto quello che canta, questa idea che anche se era, e lui era già oltre, cioè lui era già in un mondo di successo e di denaro, ha fatto un passo indietro, si è rimesso nei panni di chi il successo e il denaro non l'aveva e forse non l'avrebbe avuto mai. Anche generoso il nostro boss, perché a un certo punto ha regalato una canzone che è davvero passata alla storia, che è Because the Night, e l'ha regalata a Patti Smith, che ci racconta come avvenne tutto ciò. I was in my apartment and I was having a long distance romance with Fred Sonic Smith, who later became my husband. He was supposed to call me up, and I waited for him to call me for hours. I thought, well, I'll listen to that darn song. It was so accessible. It had such an anthemic tone. It was in my key, and I kept letting it loop and play, and I still tried to resist it, but I filled in the blanks, and in the blanks it tells the story of me waiting for Fred to call and of my love for Fred. Straordinario, straordinariamente romantico peraltro, perché una canzone che le è arrivata, che è stata scritta da Bruce Springsteen, eppure raccontava la sua vita in quel momento, e lo racconta anche con un po' di dolcezza, perché racconta dei primi periodi in cui si frequentava con un uomo che poi è diventato suo marito. Sì, e ci spiega che she was having a long distance romance, come una long distance call, cioè questo era una romance, quindi una relazione amorosa, ma a lunga distanza. Immaginatevi, perché noi non ci riusciamo più, quando non c'erano i cellulari, gli SMS, queste cose di stare attaccati al telefono, perché solo stando fisicamente attaccato al telefono, she, appunto, questo uomo che later became her husband, was supposed to call me, cioè avrebbe dovuto, sapete, to be supposed to do something è un modo per usare il condizionale, quindi in italiano diciamo avrebbe dovuto chiamarmi quella notte. Anche qui io me lo ricordo, io ho 40 anni, me le ricordo quando si stava a casa accanto al telefono a aspettare. For hours, for si hours. Aspettava for hours, per ore, e le era arrivata questa canzone, e allora mentre aspettava cominciava a riascoltare quella maledetta canzone. Quella maledetta canzone, I listen to that darn song, darn è un modo, non abbiamo credo una traduzione giusta, perché è vero, dobbiamo dire maledetto, però è un maledetto, non proprio maledetto di quello che ci fa star male, un maledetto agrodolce, quindi quella to listen to, noi diciamo ascoltare qualcosa, abbiamo l'accusativo, mentre in inglese dobbiamo usare questo to, uno dei tanti modi in cui si capisce se uno così l'inglese lo mastica o lo sa, to listen to, non to listen that song, e questa song era so accessible, e qui è anche molto bello l'uso di questa parola, no? Perché accessible è anche accessibile nel senso, per esempio, delle persone, per i disabili si usa questa parola, se un edificio è accessible, però accessible appunto è una cosa che dove non ci sono ostacoli, dove ci si arriva senza, ci si può entrare senza ostacoli. In maquis, possiamo dire, nelle mie corde, ma anche tecnicamente nella tonalità giusta per lei. Cosa faceva? Cercava di resistere, però l'ascoltava, niente, just try to resist it, ma niente, la canzone l'aveva conquistata. Perché in realtà sembrava che parlasse di lei. Qui c'è una metafora stupenda, perché lei dice I filled in the blanks, cioè to fill in the blank. Allora, letteralmente si usa anche per i test. Sapete quei test dove ci sono i puntini sospensivi? Blanks, poi è anche le parentesi. Ma quindi io, blank, poi è la cosa, il bianco, proprio letteralmente. Quindi to fill in the blank vuol dire riempire là dove ci sono gli spazietti da riempire. Quegli spazietti, cioè del non detto, perché in una canzone non è un discorso amoroso, è una poesia, poi quelle di Bruce Springsteen sono tutte poesie e quindi in quegli spazietti that tells the story of me, cioè quello che io leggevo, quello che magari non era detto ma che io ascoltavo, sentivo, leggevo, era la mia storia. La sua storia, waiting for Fred to call. Io che aspettavo che Fred chiamasse. And my love for Fred, e il mio amore per Fred. Dobbiamo salutare Bruce Springsteen, dobbiamo salutare Patti Smith per questo racconto di Because the Night. Ringraziamo Filippo Aureggi in regia, vi ricordiamo che il nostro English 24 è anche in edicola. Da Marta Cagnola, Giulia Crivelli, l'appuntamento al prossimo English 24 e ancora gli auguri di buon anno.